Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Le acque reflue, per quanto insomma ripugnanti per noi umani, costituiscono un brodo di coltura eccellente per migliaia di microrganismi che sono in grado di digerire le sostanze organiche di scarto. La maggior parte dei depuratori d'altronde si serve proprio della capacità di questi esseri microscopici per ripulire le acque fognari. Da tempo però ci si è resi conto che selezionando i microrganismi giusti, per esempio dei batteri che producono metano oppure idrogeno, è possibile fare in modo che il processo di depurazione produca anche energia. Tra le possibilità più affascinanti c'è quella di realizzare delle vere e proprie, diciamo, batterie elettriche che permettono la produzione diretta di elettricità a partire dal metabolismo di certi batteri. Si parla in questo caso di celle microbiche, come per esempio quella progettata al Center for Sustainable Future di Torino, uno dei laboratori dell'IIT, dalle ricercatrici Flavia Calignano e Tonia Tommasi, che è in linea con noi. Buonasera Tommasi. Buonasera, buonasera. Allora, come prima cosa spieghiamo questa storia, diciamo, dell'elettricità prodotta dai batteri, che immagino possa sorprendere molti ascoltatori. Sì, veramente. Questa tecnologia si basa su un processo che avviene abitualmente in natura e che riguarda quindi tutti gli organismi viventi. Infatti il metabolismo di qualsiasi batterio o di qualsiasi... Anche le cellule umano, del corpo umano, no? Esatto, sì. Creano il rilascio di elettroni, perché quando uno si nutre di qualcosa, i prodotti sono gli elettroni. E questi elettroni in genere vengono accettati all'ossigeno, ma nel nostro caso, visto che inseriamo all'interno della camera di questa cella combustibile microbica di cui hai accennato prima, inseriamo un elettrodo conduttivo, vengono attirati dall'elettrodo. Questo vuol dire che produciamo elettricità. Cioè, insomma, diciamo che tutti i fenomeni della vita sono legati all'elettricità, pensiamo che solo al sistema nervoso, ma tutte le cellule umane hanno una differenza di potenziale, come le batterie tra l'interno e l'esterno. Voi gli rubate sostanzialmente gli elettroni e producete... a un elettrodo che in genere può essere un materiale sia in carbonio, ma anche un materiale metallico, come nel vostro caso. Nel nostro caso. E qui capiamo qual è il problema. In pratica, se ognuno di questi microrganismi è una specie di piccolo generatore elettrico, voi dovete rimanere in contatto, proprio un contatto elettrico, con miliardi di questi microrganismi, no? E qui veniamo al cuore del vostro progetto, del vostro lavoro. Sì, quello che abbiamo cercato di fare insieme alla collega Flaviana Calignano è proprio quello di studiare una struttura che abbia una struttura trabecolare reticolare. Una specie di spugna, 3D. Però regolare, con una struttura regolare, sì. Che sia molto ospitale per i microrganismi. Nell'essere ospitale vuol dire che loro riescano ad aderire, quindi si aggrappano all'interno di questa struttura, colonizzano questa struttura, ma al contempo riescono a rilasciare gli elettroni. Ecco, questa struttura è fatta di che cosa e con che cosa? Sì, questa struttura è fatta di una lega di alluminio ed è stata costruita tramite un macchinario che si chiama 3D printing metallico. Una stampante 3D che stampa il metallico. 3D. Perfetto, quindi avete stampato una struttura finissima, un reticolo molto fine dentro il quale vivono questi batteri che mangiano, vivono, muoiono, eccetera, eccetera. Intanto gli trasferiscono elettroni. Sì. Ecco, questa struttura però devo dirti una cosa, è fine fino a un certo punto, sì, è una struttura fine, però praticamente ogni maglia è abbastanza larga da far fluire l'acqua sporca, e fluendo attraverso questa struttura dà nutrimento ai nostri microrganismi, che possono essere microrganismi provenienti da qualsiasi ambiente, come l'acqua di mare, l'acqua del lago, sono microrganismi diciamo presenti in natura dappertutto, e quindi questo è anche il bello di questa tecnologia. Certo, perché si può mettere in qualsiasi ambiente. Certo, e infatti ecco, veniamo a proposito di ambienti a cui si adatta, alle possibili applicazioni di queste celle microbiche. Sì, allora possiamo parlare di questi dispositivi, si spera, no, presto in un futuro, opportunamente dimensionati potrebbero depurare le acque di scarico condominiali e al contempo generare elettricità. Oppure un'altra applicazione molto interessante sarebbe quella in aree difficilmente raggiungibili, dove sarebbe difficoltoso o addirittura impossibile il collegamento con la rete elettrica nazionale. Per esempio possiamo pensare in ambienti spaziali o sottomarini, impianti di alta montagna, quindi stazioni meteorologiche. Penso anche solo al monitoraggio di tutti i sistemi fognari, dove c'è proprio la disponibilità. La sensoristica per il controllo delle emissioni, quindi sensori per il monitoraggio ambientale. Ecco, oggi diciamo questa è già una possibilità in qualche misura concreta, però diciamo che questo lavoro sulle celle microbiche ha ancora un po' di strada da fare. Quali sono le principali difficoltà che restano da superare? Sì, no, infatti questo tema richiede uno sforzo per migliorare le performance di tali celle. Sicuramente un problema è che non hanno un'alta densità energetica, anzi, e quindi bisognerebbe lavorare col fine di abbinare questa tecnologia al trattamento di inquinanti veramente organici. Veramente, ecco, se si mettono insieme le due cose, ha un senso anche economico la cosa, sostanzialmente. Esatto, potrebbe avere un senso economico in alternativa ai sistemi di trattamento tradizionali, che in genere richiedono onerosi costi per l'energia. Circa il 3% della domanda elettrica nazionale va a depurare l'acqua. Va bene, grazie a Tony e a Tommasi. Grazie a te, Melis. Ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento come sempre a domani sera.